Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 21 di giugno e questa è la prima edizione di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchesi. Alcune città come Genova sono invase da mesi da bande di latinos, risse, affari sporchi e omicidi. Il racconto di Andrea Ferro. Loro le chiamano pandillas, noi bande, gang, Latin King, Nietas, Vatos Locos, Los Diamantes. Sono il fenomeno aggregativo indotto dall'emigrazione dal centro e dal Sud America lungo la rotta transoceanica intrapresa sull'onda di una speranza e di un riscatto. Sono gruppi formati attorno ad una sigla, ad un simbolo, ad una suggestione accesa dalla necessità di rivendicare origini, differenze e coagulare forza e rispetto. Materia per sociologi e anche per poliziotti, perché non è solo folklore. Risse, aggressioni, anche omicidi. Delle bande fanno parte ragazzi e ragazzini spiaggiati al seguito delle madri venute in Italia a fare le badanti. A Genova sono soprattutto ecuadoriani, un fenomeno nel fenomeno. Andrea Torre è responsabile del centro studi MEDI, che si occupa di migrazioni nel bacino del Mediterraneo. A Genova, diciamo, si è creata soprattutto dall'inizio degli anni 90 una condizione sociale che è quella di una città molto vecchia con un numero molto elevato di anziani che avevano sempre più necessità di sostegno, di assistenza e che hanno incrociato, diciamo, la disponibilità di donne latinoamericane che inizialmente sono arrivate sole, però in maniera molto rapida il fenomeno si è in qualche modo autoalimentato, tant'è che già dal 1999 l'Ecuador è diventato il primo gruppo nazionale di stranieri, diciamo, a Genova, con una percentuale del 76-77% di donne. E poi nel corso del tempo, in questi anni, poi con un picco molto forte dopo la regolarizzazione legata alla Bossi-Fini, c'è stato tutto un processo di ricongiungimento familiare che ha, diciamo, riequilibrato il genere e anche, appunto, visto aumentare la presenza soprattutto di giovani. Le famiglie ecuadoriane si concentrano nei quartieri popolari dove un tempo trovavano alloggio gli operai venuti dal sud a lavorare nelle grandi fabbriche del triangolo industriale, San Pierdarena, Rivarolo, Cornigliano, Certosa. Un dato abbastanza particolare di Genova che credo nessun'altra città italiana abbia nella popolazione scolastica una nazionalità che incida così in maniera così elevata. Circa il 46% degli studenti stranieri nelle scuole genovesi sono ecuadoriani, quindi si parla di diverse migliaia di ragazzi. Per i ragazzi il processo di integrazione non è semplice, soprattutto per chi è nato in Sud America e poi si è ritrovato in un altro mondo a 7, 8, 10 anni. Nei quartieri popolari si mischiano tra albanesi, maghrebini, africani, uomini e donne venuti dall'est europeo in una miscellanea sociale che segmenta le relazioni. Ancora Roberto Torre. Molti di questi ragazzi in qualche modo non hanno vissuto bene, perché appunto si trattava di ragazzi già 13-14 anni che, diciamo, avevano già una serie di relazioni anche sociali nel proprio paese e quindi hanno vissuto molto male l'emigrazione, non ultimo per il fatto che poi sono stati, diciamo, inseriti in scuole, per esempio nelle scuole superiori, non conoscendo l'italiano, quindi ci sono state oggettivamente delle difficoltà di inserimento. Sui muri di interi quartieri a colpi di spray sono vergati i simboli di un'appartenenza codificata che calamita i ragazzini dagli angoli delle strade, affascina e impone le sue regole, le sue gerarchie, i suoi riti, tra i quali anche quello di dare un saggio della propria forza, magari accanendosi con i passanti. Schiaffi, pugni, rapine, spartizione del territorio, un allarme sociale che un po' schizofrenicamente rimbalza sull'onda emotiva dei vari episodi. Gaetano Bonaccorso è il dirigente della squadra mobile di Genova. Potremmo dire che in realtà una struttura gerarchizzata, dei riti, dei veri e propri riti di iniziazione attualmente sono presenti ancora nel gruppo storico dei Latin King, che appunto è sicuramente il gruppo più numeroso, più presente. Per controllare le bande latinoamericane, per decriptare il loro linguaggio, per immergersi in un mondo che altrimenti resterebbe inesplorato e quindi inaccessibile, a Genova la squadra mobile ha costituito un gruppo speciale di detective. Noi abbiamo ritenuto ragionevole e doveroso creare un gruppo dedicato a queste forme aggregative che opera un lavoro di costante monitoraggio che consiste sostanzialmente nell'acquisire gli atti di episodi che comunque, indipendentemente da quella che è la gravità o meno dell'atto delittuoso, vedano coinvolti i soggetti sudamericani, soprattutto se di minore età o comunque giovani e giovanissimi. E a quel punto sui soggetti si fa un'attenta valutazione sul loro pregresso, e anche nel contesto investigativo si cerca di verificare la loro reale appartenenza o meno. Questo, accompagnato da un'attività informativa, crea evidentemente un background di conoscenza che serve all'azione di contrasto. Nel vuoto a perdere delle banlieue nostrane, le bande sudamericane riempiono spazi e diventano anche il crocevia di ragazzini italiani che trovano nei loro coetanei sudamericani una sponda sulla quale arenarsi. È una tendenza che si sta manifestando in modo sempre più chiaro. Ancora Gaetano Bonaccorso, dirigente della squadra mobile di Genova. Si tratta di una singolare forma di aggregazione a contrario, cioè si tratta di soggetti che vengono attirati in questi gruppi aggregativi e che hanno un coinvolgimento emotivo talmente forte da snaturare la loro nazionalità, cioè parliamo di soggetti che addirittura, pur essendo italiani, parlano addirittura in ecuadoriano, in lingua sudamericana. Quindi si tratta veramente di una forma di aggregazione generata da fattori di natura psicologica. Però certo è un fatto singolare, è un fatto su cui meditare. Diciamo che l'esperienza investigativa, che è un'esperienza relativamente recente, ci testimonia questo e ci testimonia il fatto che questo fenomeno lo registriamo presente nel gruppo dei Latin Kings. Torniamo oggi su Radio 24 alle 13.30 per Italia in controluce.